Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di efficienza energetica, del rapporto efficienza energetica dell'Enea 2013 con Alessandro Federici, che è componente del gruppo sull'efficienza energetica appunto dell'Enea. Bentornato Alessandro. Grazie, buonasera a tutti. Dunque, ieri abbiamo visto che l'industria ha avuto un'accelerazione, diciamo così, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, su questo terreno dell'efficienza energetica. Eh sì. E ci sono un po' delle tecnologie, io direi quasi di moda, nel senso che ogni settore poi ha delle tecnologie che applica in modo particolarmente frequente. Voi le avete individuate e mi piacerebbe, insomma, che riuscissimo a raccontare un po' di queste tecnologie che stanno applicando così tanto in questo momento storico. Sì, beh, insomma, abbiamo fatto una sorta di panoramica facendo riferimento a quello che è la banca dati istituita dalla stessa Enea per, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, e abbiamo individuato appunto degli interventi tipo, da interventi abbastanza generali e trasversali all'applicazione di alcune tecnologie in settori specifici. Vado dal quello che può essere il più generale possibile del recupero termico, che in certe condizioni il calore recuperato può anche essere fonte per teleriscaldamento, e non a caso nel rapporto abbiamo un contributo curato dall'AIRU, che è l'associazione di categoria. Teleriscaldamento, ma poi spesso, diciamo, questo calore recuperato viene utilizzato all'interno dello stesso ciclo di produzione. Per esempio, non so, nel campo minerario capita di dover scaldare più volte il materiale, no? Una volta si scaldava tutte le volte consumando energia nuova, adesso si cerca di recuperare una parte del calore disperso in una fase di riscaldamento e di ributtarla sulla fase successiva, insomma, no? Questo è un altro modo di recuperare il calore. Poi cos'altro c'è? Beh, esatto, allo stesso modo avviene per il vapore, per la compressione meccanica del vapore. Mi viene in mente un esempio nel settore agroalimentare, per la produzione, che ne so, della conserva di pomodoro o degli omogenizzati. Serve tantissimo vapore ad alta pressione. Sì, o per la cottura, o nel caso degli omogenizzati, per la sterilizzazione dei vasetti. È quel calore che viene prodotto in caldaia secondo certe caratteristiche e che poi fuoriesce con minore pressione o minore temperatura, a certe condizioni può essere utile e conveniente, detto brutalmente, farlo passare attraverso un compressore e restituirgli le caratteristiche volute. Diciamo che se uno vuole vapore compresso, si fa prima comprimere il vapore, che è a farlo condensare, trasformarlo in acqua, farla ribollire, eccetera eccetera. Un po' questo è il concetto. Sì, diciamo, poi c'è un discorso chiaramente di convenienza, certo, economica, certo. Altro intervento che abbiamo visto trasversale è l'utilizzo di bruciatori, cosiddetti bruciatori rigenerativi, cioè in tutti quei settori che utilizzano nel processo produttivo dell'energia termica è possibile applicare dei componenti che permettono di recuperare parte del calore associato ai fumi della combustione. E anche di bruciare meglio, perché spesso questi fumi hanno dentro della roba non completamente bruciata, no? Quindi uno spreco, inquinano. Sì, esatto, ecco, legato a questo c'è un'altra tecnica, quella dell'ossicombustione, ecco. In cui non si brucia aria ma soltanto ossigeno, e quindi il vantaggio è in fumi minori e minori perdite. Altro invece, ecco, andando più nel particolare, c'è il trattamento delle acque reflue con tecnologia delle cosiddette bolle fini, sì, sì. In cui si ha in media un miglioramento del 40-50% del processo, della prestazione del processo di trattamento. Per prestazione intendo il rapporto l'efficienza energetica, certo, quanta energia consuma. Elettrica consumata per quantità di prodotto trattato, oppure... Ecco, qui che cosa succede? Spieghiamola una cosa simpatica, in pratica si tratta di fare tante bolle piccole invece di fare poche bolle grandi. Tante bolle piccole hanno una superficie di scambio molto maggiore, quindi diventano più efficienti questi sistemi, che sono basati proprio sul far gorgogliare dell'aria in un liquame di qualche tipo, no? Esatto, per cui sì. Un accorgimento anche banale per certi versi, no? Che dimostra proprio una disattenzione precedente a queste tematiche. Ma sì, basti pensare, ecco, ad esempio, modernamento delle stazioni radio, ecco. È quello che in qualche modo abbiamo visto, è che visto che, insomma, si tratta di stazioni che hanno bisogno di una temperatura costante all'interno di un certo range, notavamo l'utilizzo di una caldaia per il riscaldamento invernale e di un condizionatore per il raffrescamento estivo, e chiaramente in questo caso l'utilizzo di una pompa di calore può sicuramente migliorare la situazione, la prestazione. A volte basta farci circolare l'aria fresca che già c'è, non serve condizionare nulla, no? Eppure erano pieni questi ripetitori di apparati energivori. Grazie, grazie Alessandro Federici. Grazie a voi, buonasera. Grazie a tutti per essere rimasti con noi, ci sentiamo lunedì.